Punto. Punto e a capo. Una settimana di attualità di Gigi Donelli. Punto e a capo per quest'ultima settimana di giugno, prima settimana completa d'estate, e come se l'abbiamo sentita, non credo solo a Milano. Cari amici, un saluto a tutti voi da Gigi Donelli al microfono, da Fabio Cantadori in regia. Dunque, sole a tutta forza sulla verticale delle nostre latitudini, giustamente, come si fa intorno al 21 giugno, e possiamo dire appunto che è stata calda, molto calda, non solo da un punto di vista meteo e anche astronomico in questo caso, ma calda per le attese e anche per le preoccupazioni. Qualche giorno fa si parlava addirittura del D-Day dell'euro, dell'incontro decisivo, del precipizio, della trattativa impossibile, insomma una settimana un po' ansiogena. Oggi invece sembrano aprirsi molti spiragli, forse perché, anche perché dopo settimane tutte le borse per un giorno intero si sono mosse in terreno positivo. Ieri mattina era circa le 4 ora italiana quando la borsa giapponese, recependo le informazioni che arrivavano da Bruxelles, ha pensato bene di passare dal negativo al positivo. E poi, insomma, lo sapete, l'Asia naturalmente, l'Europa, gli Stati Uniti in questo caso a seguire. Insomma, buone notizie, e buone notizie anche perché abbiamo battuto nuovamente la Germania, cosa che non c'entra nulla con tutti i nostri guai, ma che come sempre produce effetti taumaturgici veramente miracolosi, chissà quanto durano. Domani la finale, azzurri a testa alta nel torneo dopo esserci entrati nell'ombra di un ennesimo scandalo scommesse, ma tant'è, estate, caldo, calcio, problemi, scandali che scivolano in secondo piano, almeno sui giornali. Un anziano presidente circondato da affetto e rispetto, finale a Kiev o a Madrid, di cosa stiamo parlando? Sembra di essere quasi tornati appunto a 30 anni fa, a quell'estate di Spagna 82. Insomma, corsi e ricorsi di una settimana iniziata male e finita, diciamola, bene. Guardiamo le cose in faccia. Un primo accordo tra i big europei, forse un primo passo verso quella fase nuova dell'Europa che, se non è federalista, poco ci manca. E poi, per noi europei di nazionalità italiana, la vittoria sulla Germania. Battere una grande squadra è sempre un piacere, e lo ribadiamo. Ripartiamo da Bruxelles tra qualche momento, ora però le strade in diretta. Punto e a capo. Ancora buongiorno da Gigi Donelli, da Fabio Cantadori in regia. Dunque, come vi ho anticipato, ripartiamo da ieri mattina. Le notizie sono arrivate di fatto nella notte, hanno cominciato a trapelare veramente poco prima dell'alba, e intorno alle 13 il punto su una giornata che si era già chiarita dal nostro Sergio Nava, inviato appunto al vertice a Bruxelles. Sentiamolo. Buongiorno da Bruxelles. Battuto ormai finali per un summit che ha vissuto il suo clou nella notte, il vertice ha prodotto le misure d'urgenza necessarie a stabilizzare l'euro e allontanare gli scenari peggiori per Italia e Spagna che il premier Mario Monti aveva posto come precondizione alla vigilia. Ampi sorrisi hanno caratterizzato il rientro dopo una notte quasi insonne, con Monti visibilmente rilassato. Soddisfatto anche il presidente della BCE Mario Draghi, che pochissimi minuti fa è sceso in sala stampa. Ascoltiamo subito Draghi. All these things should be, to be credible, should be accompanied by strict conditionality. Draghi si è detto soddisfatto dell'accordo notturno, ha affermato che l'utilizzo dei fondi salva stati avviene secondo le linee guida di questi meccanismi, e ha sottolineato come le misure decise nella notte sulla ricapitalizzazione delle banche, per essere credibili, dovranno essere accompagnate da una stretta condizionalità. Ha anche aggiunto che la Commissione europea presenterà una proposta per la creazione di un meccanismo di supervisione bancaria all'interno del quale la BCE potrà assumere un ruolo di coordinamento. Nell'attesa di ulteriori dettagli, ricordando anche che tutti gli aspetti tecnici saranno nero su bianco dall'Eurogruppo del 9 luglio. Vediamo ora i punti principali decisi nella notte. Per quanto riguarda l'Italia, il Premier Monti ha ottenuto che il Fondo Salva Stati acquisti i bond dei paesi nel mirino dei mercati. Lo si farà sulla base di un memorandum d'intesa. Il fondo utilizzerà la BCE come agente per condurre le operazioni di mercato. La Spagna e i paesi con il sistema bancario in difficoltà potranno invece vedere il proprio settore creditizio ricapitalizzato direttamente dal fondo, che perderà il suo status di creditore preferenziale. Questo però avverrà dopo l'introduzione di un sistema di vigilanza bancario europeo coordinato dalla BCE. Da Bruxelles è tutto. Questo era il nostro Sergio Nava. Tra l'altro, questa mattina, se ve lo siete perso, il suo reportage appunto su questa due giorni, che poi di fatto è stata soprattutto una 24 ore, per carità preceduta da giorni e giorni di trattative, di incontri, di visite tra appunto Berlino, Parigi, Madrid, Roma. Ma ve lo ricordo, questo reportage, come tutti quelli che vengono mandati in onda qui su Radio 24, poi sono riascoltabili, scaricabili, magari per una corsa, 10 minuti per sentire un po' com'è andata a Bruxelles, anche appunto attraverso il nostro podcast. Ma torniamo all'attualità. Abbiamo detto, le cose sembravano, sono cambiate, speriamo in qualche modo ieri mattina, risposta immediata dalle borse. Vi ho citato Tokyo, naturalmente le borse europee, insomma Milano, Madrid, 4-5 punti percentuali in su, dunque dati positivi, ma positive anche Parigi e Francoforte, Atene, che addirittura a metà giornata volava ben oltre il 5%. Insomma, in questo improvviso cambiamento proprio di spirito, la cosa un po' buffa di metà giornata, che è toccata allo stesso Premier Mario Monti fare da pompiere. Sentiamolo. La situazione dell'economia italiana è pesante, è pesante. Non ho mai pensato che si potesse trasformarla in leggera e in rapida salita in pochi mesi, perché l'economia fatica a muoversi per quanto riguarda il tasso di crescita, e perché nei pochi mesi non ci è stato consentito dalle circostanze di osservare l'economia e di innaffiarne la crescita come una pianticella. No, abbiamo dovuto fare cose che per molti anni le complessità del sistema politico italiano non avevano consentito di fare, dalla riforma delle pensioni alla riforma del mercato del lavoro. Mario Monti che fa da pompiere in un ambiente, in un contesto che evidentemente ha bisogno, ha sete di buone notizie. La buona notizia c'è stata e lui però ricorda qual è la situazione complessiva. Ovviamente molti commenti, ve ne segnalo uno in particolare: il vertice è un successo per l'Italia, bravo Monti, deciso proprio come consigliato da Berlusconi. Così Maria Stella Gelmini. Punto e a capo. Penso la differenza l'ha fatto tutta la squadra italiana, che è stata gestita bene dall'allenatore, e noi non siamo stati bravi a sfruttare le nostre capacità. Abbiamo cambiato qualcosa e non siamo riusciti a fare il nostro gioco, grazie anche alla buona difesa dell'Italia e poi sicuramente con Balotelli, che ha sfruttato questa disattenzione nella nostra difesa. Siamo molto delusi, pensavamo di poter battere l'Italia, ma se si guarda i 90 minuti neanche si può dire che dovevamo vincere. Oliver Bierhoff, ex milanista, direi un'analisi ineccepibile, insomma, detto da un campione, da un giocatore, da un tedesco. Carlo Genta, dunque, di ritorno da Varsavia, aspettando naturalmente Kiev. Partiamo da qui, da questa riflessione di Bierhoff. Beh, riflessione di Bierhoff che non fa una piega, è stato molto onesto nella sua analisi, come dicevi tu, perché La Germania ci ha aggrediti anche fisicamente all'inizio della partita, eravamo in grande difficoltà nel primo quarto d'ora, per grazie ricevute con qualche santo in paradiso siamo riusciti a salvare un paio di palle gol, una addirittura con Pirlo sulla linea, l'altro un rimpallo di Barzagli. Era una Germania che vista da lì, dallo stadio, sembrava essere pronta per il gol, invece il gol l'abbiamo fatto noi, costruito da due fuori classe, da due grandi giocatori. Questi servono per vincere questo tipo di partite, questo tipo di tornei, che se vuoi sono il massimo dell'anacronismo calcistico, no? Sono selezioni e si gioca a sudden death, una dentro e l'altra fuori, quindi ti serve la scintilla della classe. Cassano si è inventato la cosa più bella del suo europeo sulla sinistra. Balotelli, complice un errore, come sottolineava Birov, del difensore centrale tedesco. Balotelli ha segnato questo primo gol piuttosto facile, il secondo è stato una meraviglia. Lì la Germania ha cominciato ad attaccare a testa bassa, ma già vedevi che si stava sgonfiando. Quel gol ha fatto malissimo. Lancio di Montolivo, Balotelli spara questo siluro all'incrocio dei pali, illegale, e si toglie la maglietta, cosa che poteva anche evitare, però l'abbiamo visto felice, poi anche un bel dopo partita, no? Bello per noi italiani che sappiamo cosa c'è dentro. Per gli altri hanno detto: ma questi sono matti, Buffon che va via con la faccia scurissima, mandando via tutti, dando una manata perfino alla mascotte. Balotelli che, mentre Celentano canta nello stadio, cioè ovviamente dagli altoparlanti dello stadio il cielo azzurro, eccetera, va ad abbracciare la mamma con un po' di pudore davanti a mille telecamere. Insomma, una splendida, lunghissima notte a Varsavia, aspettando quella di Kiev, che insomma potrebbe essere ancora di più. Ecco, naturalmente aspettando quella di Kiev di domani sera, ma domanda classica che si fa ai commentatori sportivi, Carlo. La Germania sembrava fortissima, effettivamente nei primi 10 minuti quel rimpallo io l'ho ancora negli occhi, perché sì. Poi è impressionante come nel gioco, nello sport, ma in certe situazioni della vita, insomma, quel rimpallo è andato fuori, chissà. Girava a sinistra, cambiava tutta la situazione, ma insomma la domanda è questa: sopravvalutata la Germania, sottovalutata l'Italia, per cui davvero a un certo punto messa in movimento questa squadra riduce l'avversario a termini più appunto minimi? Qual è l'alchimia? Siamo davvero di fronte a una grande squadra? Siamo di fronte a una grande squadra, perché se arrivi ad una finale di un torneo come l'europeo sei una grande squadra. La Germania, insomma, ha questa psicosi ormai dell'Italia, e nel calcio, come dicevi tu, le stelle contano molto, le sensazioni contano molto, ma guarda, la sensazione che ho avuto io guardando la partita è che proprio quel gol abbia spento la Germania, che pure ha continuato a giocare, ad attaccare, a tirare in porta. Buffon forse è stato il migliore in campo, cioè non si è arresa, però il fuoco l'ha perso con il primo gol di Balotelli. All'inizio loro avevano in mano il centrocampo, avevano messo in prigione Pirlo, sembravano in 14 su quel campo. Dopo il primo gol di Balotelli la Germania è diventata una squadra di calcio normale, che cercava di attaccare, di riequilibrare il risultato, però quella furia agonistica non ce l'avevano più, si è spenta. Dopo il secondo gol, guarda, il secondo tempo ha ragione Birov, potevamo anche fargli il terzo golletto, e anche sul 3-0 non è che ci sarebbe stato poi tantissimo da dire. Assolutamente, devo dire, tutto sommato complessivamente sereno, paradossalmente anche dopo il rigore, nel senso che non si è visto poi niente, questo terrore niente, che niente, a volte niente. Viene preso non dalle si è squadre. Visto nulla. Ecco, a proposito di furie, le furie rosse in vista? Furie rosse in vista non mi hanno impressionato, se ti devo dire la verità, più di tanto in questo europeo. Erano state più devastanti nel precedente europeo poi vinto, anche ai mondiali, pur segnando poco, avevano dato un'impressione di maggiore forza. Li abbiamo già affrontati, chiudiamo curiosamente con la stessa partita con cui abbiamo aperto l'europeo. La Spagna, anche questo è un bel argomento, aveva avuto la possibilità di farci fuori biscottando la partita con la Croazia, orgogliosamente, sportivamente, giustamente non l'ha fatto, Del Bosch l'ha rivendicato, siamo orgogliosi di quanto abbiamo fatto, di aver buttato fuori l'Italia. Sai, però spesso nello sport queste cose finisci per pagarle, anche per questi strani segni del destino di cui si parlava prima. La Spagna è fortissima, ha avuto anche la sua parte di fortuna l'altra sera con il Portogallo. Però, se ti devo dire la verità, mi sembra la Spagna più attaccabile dell'ultimo quadriennio. Grazie a Carlo Gente. Allora direi di concludere sentendo Prandelli che parla con orgoglio della sua squadra, della sua costruzione. Sì, sono orgoglioso di questa squadra perché loro sono veramente forti. È una squadra giovane ma molto, molto forte. Però noi abbiamo una squadra che ha un'idea e la ricerca continuamente durante la partita, e poi abbiamo giocatori straordinari come Andrea che non abbiamo tempo per esultare ma soltanto per pensare che la prossima partita sarà quella più importante della competizione. Punto e a capo. Cesare Prandelli, ottimo allenatore non solo per i risultati ma anche per la persona. D'altra per la persona, la personalità, le scelte anche che ha fatto rispetto al ruolo sociale, passatemi il termine, della nazionale. Ma una riflessione che emerge anche in queste ore, in queste giornate di forti sentimenti antigermanici: è possibile in questo paese essere orgogliosi del proprio paese, quindi del nostro paese, senza cadere nel grottesco, magari senza scivolare in uno sciovinismo più adatto a un secolo fa che non alla nostra Europa? È una domanda che mi pongo perché in questa settimana abbiamo sentito degli attacchi violentissimi, davvero antistorici rispetto a un grande paese come la Germania. Ripartiamo da qui tra qualche momento con una riflessione di un tedesco cresciuto a Roma che come dire, rimane un po' sbalordito di fronte alle affermazioni che sono state fatte appunto sul suo paese. Tra pochissimo. Punto e a capo. Ancora un buongiorno cari ascoltatori. Dunque Italia-Germania vuol dire partite, vuol dire bellissime vittorie, vuol dire anche una storia evidentemente di relazioni, di amori e odio. Siamo nella fase degli odi, almeno lo siamo stato adesso probabilmente, visto il doppio passo avanti appunto calcistico e sul piano politico forse le cose tenderanno un po' a cambiare. Però come vi dicevo prima ci sono state davvero delle affermazioni molto pesanti intorno alla Germania, al suo desiderio di dominare l'Europa, alcuni paragoni con il passato, con la storia che va dato atto ai tedeschi, e mi riferisco chiaramente al nazismo, alla Shoah eccetera. I tedeschi, come dire, hanno affrontato anche in forma istituzionale in maniera molto forte, non sempre siamo stati all'altezza, viceversa. Comunque Manfred Kölbe è un deputato della CDU, quindi democristiani tedeschi, cresciuto a Roma e è rientrato e vive appunto come un cittadino europeo attraverso il suo paese, la Germania e l'Italia. È stato nostro ospite e lo sentiamo. Ci fa una certa paura perché siamo tutti buoni europei e vogliamo l'Europa e vogliamo anche lo sviluppo ulteriore dell'Europa, e lo voglio anche io personalmente, che sono cresciuto a Roma, cioè sono anche un po' italiano, anche se adesso sono membro del partito del Parlamento tedesco. Ma certi paragoni col Terzo Reich o questi non servono proprio a niente. Dobbiamo andare in fondo ai problemi. Il problema che abbiamo in Europa è che abbiamo una crisi economica, abbiamo paesi con una scarsa competitività e questi paesi devono introdurre delle riforme, e abbiamo una crisi del debito, abbiamo fatti troppi debiti in Europa e dobbiamo ritornare a una politica di risparmio. Questi sono i due problemi di fondo, e questo non è egoismo nazionale della Germania a imporli. Noi non vogliamo dominare nessuno, ma è nell'interesse dell'Europa, perché solo un'Europa economicamente forte ha una voce nel mondo e viene rispettato nel mondo, altrimenti non viene più rispettato e non ha nessuna occasione anche di esportare i propri valori come diritti umani, democrazia, se l'Europa fallisce economicamente. Insomma, la questione non è certo essere d'accordo con i tedeschi, appunto, cosa che non riuscirebbe nemmeno agli stessi tedeschi, ma magari a moderare anche un po' le nostre riflessioni tra europei. Non può che farci bene. Magari anche ricordare che in questo momento, mentre molti

giovedì racconta appunto questo progetto, questo percorso e quali implicazioni avrà nella vita quotidiana degli americani, da Mario Platero. Ci sono alcuni aspetti di questa legge, ma ce n'è uno in particolare che è la colonna portante di questo progetto di riforma sanitaria di Barack Obama, e cioè l'obbligo per i cittadini americani che non abbiano un'assicurazione sanitaria di acquistare una polizza usando i propri quattrini. L'idea che ha preso corpo dopo le audizioni, lunghe audizioni di un paio di mesi fa, è che l'orientamento della Corte è quello di dire che le autorità federali non possono obbligare un cittadino americano a effettuare una transazione commerciale, cioè non possono obbligarlo a comprare un certo prodotto, anche se questo prodotto è un'assicurazione sanitaria che molti ritengono debba essere introdotta. Ci sono circa 40 milioni di cittadini americani che ancora non sono coperti da questa assicurazione. Attenzione, la legge è passata, ma dovrebbe entrare in vigore nel 2014, quindi potrebbe essere una legge del tutto virtuale, effimera, una legge approvata e poi scardinata prima ancora di poter entrare in vigore. Ricordiamo che se ci sono 30-40 milioni di americani che non sono assicurati, non lo sono intanto per loro scelta, perché poi potrebbero esserlo. Sono comunque in moltissimi casi protetti da un'assicurazione statale e dunque non federale, però ciascuno Stato in un modo o nell'altro aiuta i propri cittadini, anche quelli che non sono coperti da assicurazione medica. Soprattutto ci sono 270 milioni di americani che invece hanno un'ottima assicurazione sanitaria, un'assicurazione sanitaria privata pagata nel contesto dei loro compensi, del loro stipendio. It's unfortunate it was passed during the Great Recession. It puts people in a foul mood. But there's a 100-year struggle to pass this sort of law. And it's time to do it. It's time to join the rest of the world. Ho raccolto varie voci. Ed Hale a favore della riforma e dice un peccato che la riforma sia passata in questo momento di crisi economica, perché la gente è di pessimo umore. Però, dice il signor Hale, ci sono voluti 100 anni per poter passare una legge di questo genere. Era il momento di farlo. Per noi è arrivato il momento di unirci al resto del mondo. These bureaucrats in Washington, they do not know the name of my family, they do not know the name of my kids. They do not need to be telling my family what I need to buy, what I need to do. Ken Campbell, un dentista della California. Questi burocrati, dice, a Washington non sanno niente della mia famiglia. Il signor Campbell ovviamente è contrario a questa riforma. Non conoscono il mio nome, non conosco il nome dei miei figli, non debbono dirmi cosa abbiamo bisogno di fare e cosa non abbiamo bisogno di fare, devono uscire dalla nostra vita. Ecco, questa posizione che si distacca dall'intervento dello Stato, antistatalista, per la libertà nel senso assoluto, è molto molto diffusa, non soltanto negli ambienti repubblicani, ma in una buona parte dell'opinione pubblica americana. This bill is unconstitutional as it stands. We are not against healthcare reform. We are just against this current law. Amy Brighton, attivista del Tea Party, dice: questa legge è incostituzionale. Io non sono contraria a una riforma sanitaria, ma sono contraria a questa legge. Ecco, vi ho dato questo spaccato perché su questa riforma sanitaria si è discusso nel momento in cui doveva venire approvata. Barack Obama ha pagato un prezzo altissimo, ha perso la maggioranza alla Camera. L'opinione pubblica americana ha risposto in modo negativo proprio a questa riforma sanitaria. Non ha coperto tutti gli americani, comunque una decina di milioni di persone sono rimaste fuori dalla riforma, e c'è da chiedersi ovviamente quale sarà l'impatto politico della decisione della Corte Suprema. Ecco, nel frattempo la Corte Suprema si è dunque espressa a favore del Obamacare, dunque del progetto. Naturalmente le polemiche su questo tema non finiranno qui, ma di certo oggi per Obama, che parla di vittoria, c'è anche chi, come Reuters per esempio, una grande agenzia internazionale, che parla addirittura di trionfo. E chissà che questa decisione non sia determinante nel percorso che, lo ricordiamo di fatto ogni settimana, porta verso le presidenziali di novembre negli Stati Uniti. Bene, dagli Stati Uniti completiamo con almeno una segnalazione che ci riporta a Bruxelles, al termine dunque del Consiglio europeo. Si è parlato anche di Siria, è stata avanzata la richiesta di un'inchiesta internazionale trasparente, indipendente e rapida sulle violazioni dei diritti umani avvenuti in Siria in questi molti mesi. Ve lo segnalo anche perché oggi si apre la conferenza di Ginevra sulla Siria, quella che rappresenta, secondo appunto il ministro degli esteri, in questo caso il ministro degli esteri russo, uno dei grandi attori di questa vicenda, un positivo passo verso la ricerca delle opportunità per espandere e rafforzare la base di consenso internazionale su una risoluzione politica pacifica come unico modo per risolvere la crisi siriana. E con questa notizia è tempo di sentire insieme gli aggiornamenti per chi è in viaggio, poi torniamo per l'ultima parte di Punto e a Capo. Punto e a Capo. Ultimi minuti per il nostro Punto e a Capo e ci spostiamo nel territorio di caccia, possiamo dire, della zanzara, per parlare, come dire, di affettuosità a sinistra. Allora, Cruciani e Parenzo, l'ospite è Fabio Mussi, oggi SEL. Il tema, quello di Renzi, sindaco di Firenze, che fa imbestialire la vecchia guardia PD e di cuore viene ricambiato. Senta una cosa, se vince Renzi le primarie del Partito Democratico, che succede del centro-sinistra? Se vince? Se dovesse vincere Renzi? No, ritengo la cosa, non la prendo neanche in considerazione. Addirittura? Perché? Perché? Perché non la prendo neanche in considerazione. Cioè sarebbe una sciagura per la sinistra italiana? Per il Non la prendo neanche in considerazione. No, capito, però. Diciamo, c'è una cosa fuori da ogni possibile... cioè, come sarebbe... Voi sapete che ci sono eventi che nel ragionamento, nella nostra testa, noi non prendiamo in considerazione. Cioè... È un po' come dire Berlusconi legalità, è uguale. No, è sì uguale. Potrei prendere in considerazione il fatto che mentre sto parlando su un terrazzo con voi vengo colpito da un asteroide. Questo potrebbe succedere, diciamo. Però scusi, concorre però Renzi. È un evento che in questo momento non prendo in considerazione. Però Renzi concorre, fa grande campagna in tutta Italia. C'è Giorgio Gori dietro di lui, che è un grande comunicatore, esperto di comunicazione. Magari può vincere. Cioè, è più facile. Naturalmente la sinistra ha bisogno di un leader che pensa che i sindacati sono in piccio, che la protesta del 1° maggio vada abolita, che Marchionne, Montezemolo, Marcegaglia, Squinzi e chiunque altro hanno sempre ragione. Diciamo, come leader della sinistra sarebbe un caso mondiale, cioè lo studierebbero i sociologi di tutto il mondo. Dall'asteroide di Mussi al bacio, invece, al bacio di Harry De Luca. Martedì a Essere Benessere con Nicoletta Carbone, questo è il tema, sentiamo come ne parla dunque lo scrittore. Ecco, io penso che il bacio sia il punto più alto raggiunto che si può raggiungere nella intimità amorosa, il vertice della conoscenza fisica tra due persone, poi dopo da quel vertice, da quella sommità, si può anche scendere nella rissa degli abbracci, delle strette, ma quello è appunto in discesa dal vertice raggiunto del bacio, il primo, il secondo e poi gli altri non contati, perché poi i baci sono innumerevoli. Sì, infatti tu scrivi: i baci non sono anticipo d'altre tenerezze, sono il punto più alto. Basta digitare bacio ed Harry De Luca, viene questa, fuori questa frase che racconta molto. Ma Harry, io vorrei che tu ti ricordi il tuo primo bacio. Sì. Comico. È comico? Comico, sì. Perché avvenne su prenotazione. Ma in che senso? Nel senso che io chiesi per corrispondenza se potevamo scambiarci un bacio in un posto preciso. E allora questa ragazzina venne, ci scambiammo un bacio che molto, molto prudente, ecco, dalla mia parte. E poi mi accorsi che lei ne voleva ancora, ma io avevo contrattato un solo bacio, per cui mi sentii imbarazzo e me ne scappai. Da Harry De Luca e Nicoletta Carbone, invece la nostra Marta Cagnola questa settimana è stata tra l'altro al Taormina Film Fest, un'occasione per scoprire anteprime, nuove commedie da tutto il mondo, incontrare personaggi amati, amatissimi dal pubblico, ma anche per andare a curiosare sui set estivi, e si gira molto ovviamente in questa stagione. Fausto Brizzi ha parlato per la prima volta del suo prossimo film, Pazze di me, un film al femminile. Beh, io mi sono segnato i personaggi femminili più divertenti che ho conosciuto negli ultimi 40 anni e li ho messi tutti nello stesso film. Cioè, quando vedevo una caratteristica che mi faceva ridere in una donna, me lo segnavo, dicevo un giorno farò un film sulle donne e ci sarà una che ha questa caratteristica qua, e di cui quella che mi diverte di più, appunto, come diceva, la mamma fatta da Loretta Goggi, che è una donna che mette nella stessa persona le caratteristiche dei padri e delle madri, insomma. Quindi è tenera ma severa, insomma, a seconda delle situazioni. Francesco Mondelli sarà la vittima designata, insomma, di questa famiglia di donne. Quest'anno farà la doppietta, lui prima con I due soliti idioti a Natale e poi un mese dopo esce con Mia figlia. Fai anche il produttore, è da pazzi in questo periodo di crisi. È da pazzi, produco anche i miei film, piuttosto che i film degli altri. Insomma, quest'anno abbiamo avuto l'onore di avere il film di Bertolucci prodotto da noi a Cannes. Sì, è da pazzi, però insomma, finché la barca regge è più divertente così. È inutile avere produttori filtro, te la canti e te la suoni. Meglio sbagliare con le proprie mani. Il prossimo PIF, quindi opera prima. Prossimo PIF è opera prima, ancora non sappiamo l'uscita, è una sceneggiatura molto bella, una storia romantica con PIF e Cristiana Capotondi, che è un po' una mia attrice feticcio, insomma, me la porto appresso da un po' di anni, in questo caso come produttore, e io credo che sarà una grossa sorpresa la prossima stagione, il film di PIF, e che appunto rosicherò di non averlo girato io. Cia Cia Cia è invece il titolo provvisorio del nuovo lavoro di Marco Risi, un film di genere. Si dice sempre che bisognerebbe fare film di genere, che ci sono troppi film d'autore oppure troppe commedie. Questo qui invece è un film di genere, nel senso che poi quale genere? Sono tanti i generi. Questo qui è un thriller, un film noir con atmosfere nere in una Roma abbastanza cupa e viscida, dove si sente aria di potere che sta un po' perdendo colpi, e quindi ci sono questi personaggi che si muovono nell'ombra, molto forti, molto potenti, che tentano di resistere al cambiamento, e c'è un detective, un investigatore privato, che è una figura che mi è sempre piaciuta tantissimo negli altri film, nei film americani o in quelli francesi, e che volevo riuscire a trasformare, a portare anche sugli schermi in un film italiano, però con quel tipo di atmosfera lì. Un cast peraltro di attori molto amati. Eh sì, ci vuole anche, perché insomma, per il protagonista c'è Luca Argentero, che secondo me ha fatto veramente una bellissima interpretazione, è un personaggio bello, forte, romantico. Qui c'è proprio una cosa abbastanza forte e violenta, una lotta molto dura con tre personaggi che gli vanno in casa e lui era nella doccia, quindi per le fan, insomma, non so se qualcuno si fermerà su certi particolari, ma è così, come abbiamo visto anche Fassbender, no, molto nudo in quel film, lui è il confronto, adesso non so se lo regge, però abbastanza. Grazie a Marta Cagnola, che ci porta dunque nei festival, che ci porta al cinema raccontato alla radio. Grazie a Fabio Cantadori, che ha curato la regia di questo programma. A tutti voi che siete all'ascolto, naturalmente, come sempre, l'augurio di un ottimo fine settimana, letteralmente bollente, si sa, magari possibilmente da trascorrere al mare, e ci risentiamo per la prossima settimana, punto e a capo, sabato prossimo a partire dalle 9:15. Un caro saluto a tutti voi, alla settimana prossima.